pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas, y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto. Potete pensare che le prigioni siano fatte di pareti spesse e di sbarre alle finestre, di lunghi veli neri che nascondono anche il battito dei cuori, però a volte sono fatte solo di pensieri e di silenzio. Non conoscete queste prigioni? Non mi credete? Venite allora, vi presento la mia. E allora sì, ben trovate, ben trovati. Questo è il Mini Pimer, la maxi trasmissione di questa sera, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Sono qui con Flavia e Alessia. Vi presenteremo il libro di Virginia Spada, Il cacciatore di anime. Un libro che è uscito per la Sideral Edizioni, una piccola casa editrice purtroppo poco nota, ma insomma, ovviamente andando nelle librerie chiedendolo lo potete senz'altro ordinare o andando sul sito della casa editrice. E questo libro di cosa parla? Racconta della storia vera, appunto, di una donna che si trova prigioniera, intrappolata, prigioniera, per usare le sue stesse parole, abbiamo aperto la trasmissione con ovviamente un brano del libro, di una relazione con un uomo che, appunto, come molte volte succede, da principe azzurro si trasforma nel suo aguzzino, la costringe all'isolamento e al silenzio, e questo libro è la sua testimonianza. Noi l'abbiamo letto, ci è piaciuto molto e quindi volentieri lo presentiamo, e lo presentiamo anche un po' in linea con tutto il lavoro che queste trasmissioni ormai da anni fanno, riconoscendo l'importanza, insomma, di ascoltare, di ospitare, di dare spazio alle verità, insomma, delle donne, che le donne raccontano. E quindi, per spiegare anche perché vogliamo leggere e presentare questo libro, usiamo le parole di Audre Lorde, no, Flavia? Sì, citando Audre Lorde: quando le parole delle donne esigono di essere ascoltate, ognuna di noi deve esigere di riconoscere la propria responsabilità di tirar fuori quelle parole, leggerle, condividerle ed esaminarle in base alla propria vita. Non nascondiamoci dietro le false separazioni che ci sono state imposte e che troppo spesso accettiamo come se fossero nostre. Possiamo imparare a lavorare e a parlare nonostante la paura, allo stesso modo in cui impariamo a lavorare e a parlare nonostante la stanchezza. Siamo state educate a rispettare più la paura che la nostra necessità di comunicare e definire. Ma se aspettiamo in silenzio che arrivi il coraggio, il peso del silenzio ci farà annegare. E ci sono molti silenzi da spezzare. Eh sì, ci sono infatti molti silenzi da spezzare. Questo libro sicuramente ne rompe, insomma, uno, e non è per fortuna l'unico. Le donne scrivono delle loro esperienze e appunto per noi è assolutamente importante, diciamo, dare uno spazio a queste verità che le donne raccontano e che non trovano, ai noi, agibilità in nessun altro posto, insomma. E pensiamo che testimoniare appunto il vissuto sia un esempio di coraggio, che va appunto anche incoraggiato, e quindi, insomma, diamo il benvenuto a questo libro. Non abbiamo con noi purtroppo, insomma, l'autrice, con cui però siamo state in contatto via mail, e quindi casomai ci stesse ascoltando ovviamente la salutiamo. E appunto addentriamoci in questo testo, che, diciamo, descrive effettivamente molto bene una situazione di progressivo annichilimento, violenza, manipolazione che vive questa donna, come molte altre. È un libro molto sottile, perché le storie di violenza, diciamo, sono molto diverse l'una dall'altra, lo sappiamo, ogni storia è anche unica nel suo genere, ma poi esistono dei tratti comuni, dei sentimenti che accomunano il vissuto di queste donne, e Virginia Spada, insomma, secondo noi in questo libro ha ripercorso molto bene, anche con un linguaggio poetico che, insomma, non è facile mantenere in certe situazioni, ha ripercorso molto bene quelli che sono un po' i tratti universali della violenza che appunto caratterizza la vita delle donne, di tutte quante, perché effettivamente non siamo escluse, nessuna di noi, è comunque una delle cose più probabili che nelle nostre vite può capitare. Nella storia di questo libro, Il cacciatore di anime, la storia si apre con un fatto, insomma, reale, presupponiamo, della protagonista che ha avuto un incidente d'auto, e quindi lei già comincia, insomma, con parole anche appunto veramente in grado di comunicare molto, a descrivere un po' il punto di partenza di questa storia, il suo punto di partenza, appunto, in cui è particolarmente vulnerabile dopo l'incidente. Perdere la memoria era stato come risvegliarmi di fronte a un enorme specchio, completamente nuda. Da bambini gli abiti che indossiamo sono quei comportamenti che ci fanno sentire accettati dai nostri genitori. Però, crescendo, è un continuo cambiare vestito, perché ci mettiamo alla ricerca di un nuovo nucleo che ci contenga e che ci racconti chi siamo, ciò che è giusto e ciò che è proibito, quali sono le regole di questo nuovo gioco in cui cerchiamo alleati perché non vogliamo essere da soli. Io mi ero svegliata, i miei vestiti non c'erano più a dirmi chi ero. Quelle vesti comode e piacevoli, scelte perché mi ci trovavo bene dentro e perché piacevano ai miei amici, o meglio, a quelli che volevo che fossero i miei amici, si erano dissolte insieme ai miei ricordi. Non c'era più niente intorno alla mia identità, nulla a proteggermi e a identificarmi. Improvvisamente mi accorsi di essere un nome e che era tutta la vita che stavo costruendo me stessa intorno a quel nome. Non avere più un passato e dipendere da altre persone aveva significato anche perdere la mia facoltà di scegliere e dover lottare di nuovo perché gli altri non pensassero di poter decidere tutto al mio posto. Il problema è che non avevo la capacità e la forza di combattere perché tutto si muoveva più velocemente della mia possibilità di osservare e comprendere. È difficile scegliere quando non sai chi sei. Insieme alla memoria mi era venuta meno la forza di affermare me stessa e i miei bisogni. Mi sentivo sbagliata, senza nemmeno sapere perché. Lentamente si insinuò dentro di me l'idea che se non mi ricordavo niente, forse una ragione c'era. Magari non valeva la pena di tenere stretti quei ricordi e quella vita, ancora mia, ma così ridotta all'essenziale da non sapere più se fosse un premio o una punizione. Ero in un'esistenza ben precisa e delineata, però non avevo nessun motivo per esserci, non l'avevo scelta. Il mio nome e il mio cognome l'avevano scelto per me e io mi ci sentivo buttata dentro, come se qualcuno volesse spingermi dentro un tritacarne. Nella mia testa si susseguono immagini, parole, spiegazioni e giustificazioni. Cerco di convincermi che non ho sbagliato a scegliere Poggio delle Rose. Non c'era scelta. Se ti svegli nudo nella vita di un altro, puoi soltanto andare avanti a tentoni finché non ti sei procurato dei panni nuovi. E allora questo appunto era la descrizione presa in diversi punti del libro dell'incidente che appunto ha vissuto la protagonista e l'abbiamo menzionato, vabbè, intanto ovviamente perché lo riporta anche lei dall'inizio del suo libro, ma anche perché poi in alcune frasi, come per esempio quando dice è difficile scegliere quando non sai chi sei, mi sentivo sbagliata senza nemmeno sapere un perché, è proprio un po' la descrizione della condizione psicologica che molte donne si trovano a vivere. È una descrizione non tanto lontana da molti momenti che possiamo avere tutte quante, insomma, per cui in qualche modo ci riconosciamo anche in questo punto di partenza. Incidente o non incidente, spesso ai noi appunto, data il tipo di società nella quale viviamo, è difficile che troviamo un'accoglienza per avere una fiducia in se stesse e quant'altro, e quindi non sapere chi si è un po' una condizione generale delle donne. Ed è appunto un po' il punto da cui partiamo tutte quante. Gli abissi non sono ragnatele trasparenti, celate tra le foglie, in cerca di vittime inconsapevoli. Sono fiori carnivori, ameni e seducenti. Ti chiamano mostrandoti la loro bellezza. Tu li guardi e una parte di te dice che non devi fidarti, che quell'odore è troppo dolce, quella strada è troppo facile. Però vai avanti e ti avvicini per toccarli, per sentirli, per guardarli, pensando che in ogni momento potrai tornare indietro. E allora dunque questo, entriamo appunto dopo l'inizio in quello che è l'incontro insomma con quest'uomo. Non lo ripeteremo mai abbastanza, ovviamente la maggior parte dei casi di violenza contro le donne si consuma proprio dentro le mura domestiche, cioè purtroppo proprio ciò che spesso ci è più familiare, su cui riversiamo maggiori aspettative, è ciò che poi si rivela appunto essere per noi effettivamente deleterio. E quindi questo era, diciamo, un piccolo brano che abbiamo scelto per indicare un po' quello in che modo Virginia Spada rielabora l'incontro con quest'uomo, e proseguiamo poi con sempre questo, diciamo, sue impressioni relativamente a questo primo incontro e al modo in cui quest'uomo è entrato nella sua vita. I cacciatori un giorno sono stati esseri umani come tutti gli altri, anime luminose venute sulla terra per realizzare se stesse e i loro sogni. Sono state le delusioni, le disfatte, le strade che si sono rivelate vicoli ciechi, i tradimenti che giorno dopo giorno hanno risucchiato la loro luce, lasciandoli soli con due uniche possibilità davanti: accettare lo sbaglio e assumersi la responsabilità di non aver saputo scegliere, oppure odiare tutto ciò che li ha portati a quella scelta e tutti coloro che non l'hanno fatta. Quando abbracciamo la seconda, l'incapacità di ringraziare la strada sbagliata e di riconoscerla come un percorso di conoscenza di loro stessi li rende pericolosi, perché li porta a tendere agguati a chi gli è vicino. La rovina degli altri diventa per loro nutrimento e consolazione. Non pensate però che siano poveri mendicanti al bordo della strada, perché non è così. La via del potere e della distruzione è spesso lastricata di successo e di credibilità agli occhi di chi non ha ancora scelto. Potete riconoscerli dal loro sguardo, profondo e senza lucentezza, ma deciso e senza nessuna incertezza nel fissarvi. Essi non esitano, non sbagliano. E quando grazie a loro arriva il fallimento della vostra esistenza, fanno un passo indietro e con il sorriso vi dicono che voi avete scelto. Allora sì, in effetti non ci sono dei segni esteriori per riconoscere l'uomo violento, e lo sono potenzialmente tutti, e quindi è proprio in queste sfumature di atteggiamenti che forse vanno riconosciuti alcuni sintomi, insomma. Ovviamente col senno di poi si possono modulare, diciamo, alcuni accorgimenti, ma insomma sappiamo bene che la vita non è che, insomma, di solito ci prepara a questo. E sì, e poi c'è quest'altro, diciamo, aspetto sulla credibilità di cui spesso godono gli uomini violenti, poiché appunto non hanno dei caratteri somatici particolari o caratteriali particolari. Sono anzi spesso uomini di successo che hanno una rete appunto di amici, conoscenti, familiari, che spesso pensano di loro che siano persone straordinarie, e quindi è difficilissimo per le donne diciamo far combaciare questa immagine pubblica con quella privata di appunto persecutore. Noi facciamo uno stacchetto musicale, mandando invece che appunto la musica di Kate Bush, una canzone pensata apposta. Lei è Mia Martini, Una donna. donne piccole come stelle, c'è qualcuno che ne vuole pelle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno, donne piccole violentate, oltre quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna, come la fa di mare, chi si bagna con anche il sole, chi la muove per una notte, c'è chi invece la prende a volte, donna come un mazzo di fiori, quando i soli si fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà? Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna, che è un santo dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quelle mani non va più tanto e se ne è andato soffiando il vento. Donna, come la fa di mare, chi si muore vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte, donna come un mazzo di fiori quando è sola ti fa. Quando un cacciatore vi incontra e voi accettate il suo gioco, la sua prima mossa sarà quella di allontanarvi dal vostro territorio interiore, dove ci sono posti e persone che vi fanno sentire forti e al sicuro. Metterà in discussione le vostre certezze, in dubbio la veridicità delle parole di coloro che amate, la bellezza dei luoghi che vi fanno sentire a casa, finché vi ritroverete in uno spazio vuoto dove sarete solamente voi due. Solo allora comincerà la vera lotta, però prima vi avrà mostrato più volte cosa succede ai suoi nemici. Davanti a me appare una carrellata di immagini miste a parole, gli incontri con i miei genitori, con gli amici, le telefonate interrotte, le provocazioni e le cattiverie, l'insistenza per farmi abbandonare tutte le mani che cercavano di trattenermi e non farmi cadere in questo vortice. E allora sì, stiamo leggendo il libro di Virginia Spada, Cacciatore di anime, e appunto, come avete sentito, lei usa questa espressione, insomma, del cacciatore, questa metafora per significare l'uomo violento. appunto il libro ci ha interessato molto perché poi è pieno di verità, di frasi, ecco, raccontate molto bene, con attenzione anche alla psicologia, è molto profondo. E in effetti questa sensazione di isolamento, che poi non è tanto una sensazione, è anche molto reale, questo uomo che piano piano va a erodere tutti i legami che le donne hanno con le amiche, con la famiglia, insomma, con colleghe, colleghi, e appunto inizia all'interno di questo isolamento la lotta vera e propria. E appunto anche questo ci sembra un'esperienza veramente condivisa ampiamente da tutte le donne che testimoniano e che raccontano in che meccanismo, insomma, si consuma una violenza in un rapporto. E quindi continuiamo, insomma, a leggere e a parlare di questo tipo di relazione, insomma, come lo descrive Virginia Spada. Penserete che un cacciatore che vi presenti un universo distrutto non possa essere più attraente di un uomo che vi chieda di sognare con lui? Ma c'è una differenza enorme tra un uomo e un cacciatore di anime. Un cacciatore non dice mai la verità, nemmeno a se stesso. L'unico dubbio che entra nella sua esistenza è quello usato per far crollare le vostre difese e lasciarvi inermi. I cacciatori mentono e non dubitano mai. L'incertezza nasce dalla coscienza dell'uomo, che di fronte ai propri desideri si domanda se quello che vuole porterà gioia anche a chi ama e al resto del creato. I cacciatori conoscono esclusivamente la loro avidità e sono incapaci di percepire l'afflizione che provano gli altri. Vivono in un mondo i cui confini sono fatti di insoddisfazione, il cui sole brucia della paura del cambiamento e la cui luna brilla del terrore dell'immobilità. Però soprattutto si muovono in una realtà fatta di nemici, dove l'ultimo alleato si è dissolto come la nebbia al sole. Tanto tempo fa ogni cacciatore era un uomo o una donna che sognava e desiderava, che si guardava intorno e nei sorrisi e negli occhi delle persone riconosceva i compagni di un viaggio scelto per la propria crescita e conoscenza. Poi qualcuno di quegli sguardi è diventato scuro, la luce si è spenta e quell'uomo e quella donna sono stati traditi proprio nell'aspetto in cui erano più vulnerabili. Ma non una sola volta, tante volte, da tanti volti e da occhi diversi, che ora si confondono nella memoria e diventano un unico viso, quello del nemico. La loro sofferenza non curata ha cominciato a far marcire le pareti del loro cuore e a minare la loro mente con pensieri dolorosi e paranoici, nei quali ogni occhio è in agguato per spiarli e prendersi un altro pezzo del loro sogno, un altro dei loro desideri, un'altra parte delle loro integrità. Nel tentativo di proteggersi e di allontanare tutte le fonti della loro ansia, sono rimasti soli in un luogo freddo e desolato. Il marcio del loro animo è diventato odio verso la luminosità e i sogni intatti degli altri. Perché non è reato rubare i sogni di un altro essere umano. Quanti sono i ladri di sogni, i cacciatori di anime? Multiformi e prevedibili. Possono vestire tutti gli abiti e parlare ogni lingua. essere miserabili o ricchi. Di solito però non sono mai veramente giovani. Allora proseguiamo con la lettura del libro di Virginia Spada, Cacciatore di anime. Proseguiamo. Devi aver perso molte volte, aver sanguinato e cicatrizzato le ferite, aver odiato ed essere stato odiato, aver ferito per diventare un cacciatore. Ma cos'è che davvero porta un essere umano a diventarlo? Una parola si fa spazio sulle altre: egoismo. Il proprio bene sopra quello di chiunque altro. Però non basta, ci vogliono avidità, paura, odio. Che cosa ancora? Follia, ci vuole follia per non comprendere che l'amore per gli altri e per la terra è amore per noi stessi. Invidia, la gelosia di vedere nel sogno realizzato da un altro l'espressione della propria inadeguatezza e della propria sconfitta. L'incapacità di capire che la gioia di un altro essere umano è una goccia, ma capace di dissetare migliaia di cuori assetati, anche il nostro. Menzogna, per essere cacciatori, bisogna arrivare a saper mentire anche a se stessi e a non guardarsi nemmeno quando ci si specchia. Potere, bisogna desiderare il potere più di ogni altra cosa. Allora, in questo breve paragrafo condensati moltissimi aspetti, insomma, che caratterizzano l'uomo violento e molti altri ce ne sono, e quindi proseguiamo ancora un po' con la lettura. Lo ricordiamo, stiamo leggendo Cacciatore di anime. I cacciatori sono i vampiri del nostro secolo, capaci di girare anche in pieno giorno, ma che non amano le albe. Sono ovunque, dissimulati dietro ai volti, nascosti dietro alle insinuazioni, segregati nella profondità dei pensieri e dei sentimenti, in attesa. Guardate con attenzione e vedrete il cacciatore occultato nel vostro vicino di casa che desidera che il vostro stereo esploda perché odia la musica che ascoltate, nella vostra collega invidiosa perché voi state facendo carriera e lei è stata lasciata dal marito, nel politico arrivista e affamato di potere che cerca il vostro voto solo per realizzare i suoi fini, che non terranno minimamente conto dei vostri bisogni. Perfino nella vostra damigella d'onore, che per la gelosia desidera vedere lo strascico del vostro vestito impigliarsi in una delle panche facendovi cadere. Come accade? Quando vi cattura la sensazione che la vittoria di un altro vi tolga qualcosa? Perché il passo successivo è pensare che la disgrazia di un altro possa essere un vostro successo, legittimarvi e mostrare il vostro valore. Mud all over the house. essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos. Allora, questo è il Mini Pimer, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Stiamo presentando e leggendo brani dal libro di Virginia Spada, Il cacciatore di anime. E appunto commentavamo la capacità descrittiva di questi caratteri, insomma, che si nascondono dietro gli uomini violenti, e soprattutto anche di questa doppia faccia, per cui appunto l'uomo violento ovviamente non è identificabile immediatamente, ma diciamo questa propensione e questo attaccamento anche al potere, tra le altre cose che lei dice, è qualcosa che ovviamente non si può vedere, quindi così siamo un po' esposte tutte quante al caso. E un altro aspetto interessante è il modo in cui lei, diciamo, riesce a descrivere questa reiterata violenza psicologica, questo chiudersi lentamente degli spazi intorno a lei, questa sensazione sempre più angusta di invisibilità, insomma, di fronte invece a fronte della credibilità pubblica di quest'uomo, insomma, come di tutti quanti gli altri. E appunto spiega bene come questa reiterata violenza psicologica poi può condurre anche alla violenza fisica, e questa avviene quando ormai la donna ha perso la capacità di reagire, ha perso la fiducia in se stessa. E infatti c'è una bella frase che riguarda il corpo, un bel periodo che riguarda il corpo nel libro, e che ora appunto andiamo a leggervi. Il corpo ci permette di dare e ricevere e di gioire dell'esistenza, ma quando la sua integrità è violata, diviene l'entrata dell'afflizione, dell'umiliazione, della vergogna, e non c'è più un luogo dove poter esistere. La mia mente era diventata la dimora delle paranoie, il cuore, la roccaforte dell'ansia e del risentimento. Non possedevo più una casa. Anche davanti alla più splendente delle albe continuavo a cadere senza sosta nell'abisso che mi chiamava verso di sé. La paura e il senso di colpa erano due piombi legati ai miei piedi, mentre la realtà intorno era diventata un acquario riempito delle mie lacrime. Muitas vezes filho de um pai desconhecido, que vai ter sempre como inimigo as armadilhas da Babilônia, pra nos derrubar, pois diáspora assassina, distorce e elimina a história. Mas tenho fé nessa vitória. A afrodescendente consciente tem poder de revolucionar as mentes, às vezes bem eloquente. E eu aqui como MC, eu quero a glória, e que fique registrado na memória a certeza que nós temos o poder. Já vai virar a voz da eliminação das diferenças, sem importar a cor, a raça e a crença, indo assim, a E allora, appunto, lei descrive insomma questo soggetto violento con cui ha vissuto e descrive il tipo di relazione e appunto quest'ansia che caratterizza il suo stato d'animo accanto a lui. E appunto dicevamo che diciamo la violenza fisica avviene appunto anche quando ormai la donna ha perso proprio la sua capacità di reagire. Chi si occupa di questo parla proprio, usa un termine che è la spirale della violenza, è proprio una spirale dalla quale è molto difficile uscire, anche perché a un certo punto si crea proprio una situazione per cui il mondo è filtrato e proprio si vede il mondo attraverso gli occhi del manipolatore che ti sta accanto, e quindi perdi, esatto, è parte dell'isolamento e proprio di una realtà che lui presenta sempre modificata continuamente, per cui ti dà un senso di incertezza. Lei spiega molto bene insomma questa sensazione che è nata, covato dentro di lei per tanto tempo, e non è appunto l'unica, ci teniamo a specificarlo. Leggiamo questo libro perché è scritto molto bene, ci è piaciuto, ma anche perché narra e spiega bene un'esperienza che ai noi accomuna moltissime donne. Non c'è accanto a questi manipolatori una verità chiara, una realtà a cui appigliarsi, la realtà è costruita da questi manipolatori esclusivamente poi per portare avanti, per proseguire, per perpetuare la condizione di violenza nella quale ti stanno facendo vivere. E quindi insomma avere consapevolezza di questo può forse aiutare appunto a tentare di uscirne fuori. Lei racconta anche ovviamente molti episodi di violenza più o meno sottili, parla di un aborto, dell'uso di droghe, descrive anche questo rapporto che è un po' un sali e scendi, cioè non è che l'uomo violento è sempre costantemente violento, è fatto anche di momenti diciamo di tranquillità funzionali proprio a invece continuare a perpetuare il suo dominio, perché è vero che poi c'entra molto l'attitudine diciamo a maneggiare il potere e a farsene forti insomma. E quindi sfatiamo anche insieme a Virginia Spada alcuni dei luoghi comuni legati alla violenza, appunto l'aggressione fisica per strada, l'uomo improponibile che è solo quelle che appunto stanno fuori di testa possono avvicinarsi a loro. No, sono rispettabilissimi, credibilissimi, anche piacevoli sotto molti punti di vista, e però non poi nella relazione questo è quello che hanno da offrire. Mi sono un po' persa dentro tutto questo marasma. Dobbiamo continuare un pochino ancora a leggere, quindi vi do la parola a voi. Prego. State attenti quando guardate la televisione, leggete un libro o un giornale, o delegate la vostra capacità di comprendere e vedere a qualcun altro e abbracciate la sua verità. Quella persona, dietro al suo fascino apparente, potrebbe essere un cacciatore in cerca di prede. Qualcuno senza nessun intento di condividere la sua conoscenza e il suo benessere con voi, ma con la sola volontà di possedere e usare la vostra luce per realizzare i suoi scopi. Jeans and things, and put them in the new. Gli esseri umani sono volubili e confusi, brancolano nella penombra delle loro menti alla ricerca di risposte, ma anche quando le ricevono non hanno abbastanza coraggio da prestare fede a ciò che vedono e vivono. L'amore è espressione sulla terra di Dio, ma Dio non si incontra nelle grandi invenzioni, nelle grandi passioni, nei momenti d'ebbrezza, nelle promesse. Dio è nei piccoli gesti, nelle faccende di ogni giorno, nelle venature del tavolo che una volta è stato albero, nel vento che gioca tra i rami che una volta sono stati semi, nel fiore appassito che qualcuno ha dimenticato in un vaso, in un bruco che aspetta di diventare farfalla, in due mani che lavorano insieme passandosi un mattone, in una parola di conforto, in un piatto sporco che aspetta di essere lavato, in un bambino che aspetta di nascere, in un vecchio che aspetta di morire, in un attimo di rabbia, in una lacrima come in un sorriso. Dio è in attesa dietro a ogni cosa, ma noi abbiamo timore di aprire gli occhi per vederlo. Questo è ciò che ora so, ma che allora mi era sconosciuto, e in quella notte, in quell'incontro, in quelle promesse, io ho creduto di trovare l'amore che sarebbe sopravvissuto alle ere. E allora sì, molte cose diciamo si imparano, si devono in qualche modo imparare da queste esperienze e, una è quella con cui abbiamo chiuso appunto la lettura di questo bel libro, unitamente diciamo anche all'importanza, perché poi insomma il contenuto del libro l'abbiamo trattato per questo, è scritto molto bene, è però anche proprio un oggetto importante per noi, perché è proprio innanzitutto un tentativo di non sentirsi sola, cioè un modo ottimo per uscire anche dalla solitudine, che è uno dei diciamo delle condizioni che rende veramente difficile liberarsi dalla relazione violenta. E noi Virginia non possiamo appunto sentirla dal vivo e vogliamo anche un pochino spiegare il perché poi come molte donne vittime di queste situazioni violente è già difficilissimo uscirne fuori, prendere coscienza, come abbiamo visto, uscirne fuori, fare dei passi in direzioni contrarie, e poi però ti scontri inevitabilmente con tutto quello che è l'iter che la società ha preparato per le donne che appunto riescono a uscire da una situazione di un rapporto violento, che appunto è veramente penoso insomma anche dover affrontare questo. Lo fanno in moltissime, ma insomma lei, noi ci siamo scambiate delle mail insomma, perché purtroppo Virginia, proprio per come la chiamiamola così giustizia italiana affronta questi casi, alla fine per proteggere se stessa e proteggere i suoi figli eccetera, è dovuta andare via a lasciare l'Italia e, diciamo in uno scritto che ci ha fatto, ci racconta di questa sua anche seconda parte della vicenda che il libro non contiene. Noi ovviamente la invitiamo a scrivere una volta conclusa tutta questa vicenda anche sull'aspetto giudiziario insomma del tribunale. E innanzitutto la prima conseguenza per queste donne, che quando esci da un rapporto violento spesso ritorni a casa dei genitori o ti ritrovi in una condizione veramente di per cui è molto difficile sostentarsi, soprattutto se ci sono anche i figli, uno o più. E quindi è quello che è successo anche a lei, insomma, torni dai genitori, non hai diritto ad aiuti, i genitori vengono considerati in grado di mantenere una donna e quindi si presuppone che lei ritorni indietro dai genitori. Poi ci sono ovviamente gli psicologi, il percorso psicologico è molto importante ed è una forse delle uniche risorse a cui lei ha potuto attingere, seppur con molta fatica. I miei pensieri, racconta, erano confusi, di notte avevo incubi continui, di giorno insicurezze e paure, ero fragile, insicura, racconta anche cose molto comuni tra noi, cioè questo chiedere scusa 300 volte per cose di cui magari non hai neanche colpa o cose stupide, insomma il fatto di vivere con quest'uomo Di vivere accanto a un uomo violento effettivamente toglie molto benessere, molta sicurezza. Poi si è rivolta agli avvocati, quindi tutto questo iter di tribunale in cui innanzitutto la parola delle donne e quella dell'uomo violento è messa sullo stesso piano, e quindi si tratta in quel contesto, con un giudice che 90% è maschio, di decidere quale dei due o in che modo questa relazione violenta può trovare una soluzione secondo il tribunale. E quindi sì, ci sono tutte queste cose terribili per cui le donne si devono sottoporre a una perizia psicologica tanto quanto l'uomo, si deve decidere dell'affidamento dei figli. Questa è un'altra, insomma, adesso non abbiamo purtroppo il tempo di parlarne, ma l'abbiamo fatto anche in altra occasione, è una cosa abbastanza inquietante. Inoltre, lo ricordiamo, una subisce per molti anni, quando decide di denunciare, le denunce per violenza sessuale dopo 6 mesi non hanno più valore, anzi è stato anche aumentato il tempo, perché su tutte le altre denunce sono 3 mesi, molestia non ha un tempo fisso, ma altri tipi di aggressioni di solito vanno denunciate entro 3 mesi, nel caso della violenza sessuale 6, ma 6 sono pochi, e poi appunto magari una trova il coraggio dopo 3-4 anni, come fai a dimostrare, chiaramente incappi in tutti questi meccanismi terribili della giustizia italiana. Più appunto la questione degli alimenti, quindi le discussioni continue, non si riesce mai a tagliare veramente sto legame con l'uomo violento, perché il tribunale comunque tende a mettere le due posizioni sullo stesso piano. E quindi lei, come altre, insomma, alla fine ha deciso, ai noi, di andare via dall'Italia. Leggo 3 righe proprio anche sul perché appunto ha scritto questo libro. Ho scritto il mio libro per dire ad altre donne: non temete quando non siete credute, non scoraggiatevi che la vostra verità sia continuamente negata. Io so cosa state provando, conosco la vostra frustrazione, il dolore, l'insicurezza, la rabbia, il bisogno di poter ricominciare a vivere e non solo a sopravvivere. Insieme forse le nostre voci unite possono trovare quell'ascolto che da sole non abbiamo trovato. Questa sicuramente è la chiave per uscire dalla violenza, il fatto che le donne appunto si solidarizzino tra loro, si guardino tra loro, si diano spazio, ed è anche quello che tentiamo di fare in queste trasmissioni, ma non solo, è una cosa auspicabile in qualsiasi aspetto della vita quotidiana tra le donne. Sono molte anche le donne che invece ci intralciano, per esempio la stessa Virginia racconta, insomma, e non è l'unica, spesso sono proprio le donne a ricondurci ai quei ruoli di obbedienza, di madre buona, coscienziosa, eccetera. Ecco, cerchiamo appunto di rompere anche con questi meccanismi, di interrogarci profondamente, di ascoltare le altre e credere soprattutto a tutto quello che dicono, perché effettivamente su queste cose così mostruose non c'è bisogno di mentire, ecco. Detto ciò, abbiamo chiuso lo spazio. Ricordiamo il libro, la casa editrice, che aspetta, ce l'ho qui, ma è scritta piccolissima. Ecco, Sideral è la casa editrice, il libro è Il cacciatore di anime di Virginia Spada. Noi ci ringraziamo tra di noi che abbiamo letto e commentato il libro, ringraziamo ovviamente moltissimo Virginia Spada, è un po' come fosse stata tra noi con le sue mail e il suo scritto, e speriamo invece di poterla incontrare presto, giusto? Tuo caro a Virginia. No, scusami, vai. Un saluto caro a Virginia, e con stima, con affetto, e grazie. Grazie Virginia. Va bene, noi chiudiamo lo spazio con Carmen Consoli, mio zio, proprio contro ogni stereotipo. È così. Ci è stato suggerito. Lo facciamo. Un saluto, ciao. Soprabito nero, era un uomo distinto, mio zio. Madre, non piangere, ingoia e dimentica le sue mani ingorde tra le mie gambe, adesso sta in grazia di Dio. all'estremo saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello. E sento il disprezzo profondo, i loro occhi addosso, svelato l'ignobile incesto, e non mi hanno creduto. Ti porta in vacanza.